piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. America Latina e Caraibi si confermano ancora uno degli epicentri della pandemia, con oltre 3 milioni di contagi accertati e quasi 140.000 morti, la metà dei quali in Brasile. Il Perù, alle prese con il picco dell'epidemia, ha dichiarato lo stato d'emergenza in diversi distretti, mentre il Cile ha superato i 300.000 contagi. Ma la notizia che ha colpito tutti, stupito però pochi, è la positività del presidente brasiliano Bolsonaro, che per mesi, incurante delle misure restrittive o di distanziamento, indossava casualmente la mascherina e si immergeva senza problemi in veri bagni di folla, abbracciando e baciando i suoi sostenitori. Bolsonaro si è mostrato di nuovo in TV oggi, seduto alla sua scrivania e mentre prende della terza dose di idrossiclorochina, riconfermando così il suo atteggiamento spavaldo, assumendo infatti un farmaco antivirale usato per la malaria e sconsigliato dall'OMS contro il Covid-19, che presenta numerose controindicazioni. Oggi Bolsonaro ha inoltre detto: la nostra politica è non diffondere il panico, che porta anche a depressione e morte. Ho sempre detto che la lotta al virus potrebbe avere un effetto collaterale peggiore del virus stesso. La vita continua, ha detto poi, il virus è come la pioggia, presto o tardi ti coglie. Questo è un servizio di Sky TG24 che sintetizza quello che è il punto della situazione, non soltanto a livello locale ma a livello mondiale. Il Covid ci ha dato il senso vero della globalizzazione e allo stesso tempo il Covid ci dimostra come il mondo ormai sia in una spaccatura ideologica totale che non tiene conto di quelle che sono le emergenze, la realtà, ma porta tutto su un piano ideologico. Mi sono accorto ieri sera, mi ha chiamato un'amica mia che sta in Messico, eravamo nella stessa situazione, lei chiusa dentro casa, io a casa mia a riflettere sulla trasmissione che avevo fatto oggi, entrambi con un'idea fissa di un virus che comunque ha cambiato le nostre vite, lei in Messico, io in Italia, accomunati da qualcosa che comunque non può essere sottovalutato, perché il fatto che crei preoccupazione a latitudini così differenti significa che è una realtà. Avete sentito anche lo stato di salute del presidente Bolsonaro, oggi divide ideologicamente gli osservatori. Leggo su dei giornali, la sinistra esulta per il Covid di Bolsonaro, e su altri giornali, Bolsonaro che ha preso in giro, ha sottovalutato, prende le acquette della salute totalmente inutili dicendo che quello è il rimedio per il Covid e poi li ha preso. Adesso non c'è una lettura concreta, coerente, asettica, laica oserei dire sulla realtà, ma ogni cosa diventa motivo comunque di riaffermare la propria posizione ideologica. Vedo colleghi in alcuni programmi serali scherzare, ridere, e le persone dicono mettete la mascherina, e le persone dicono state distanziati, ma che stupidaggine dire i bambini devono stare distanziati a scuola quando poi in spiaggia si va tutti appiccicati. Insomma, non c'è una serena valutazione di quella che è la realtà, e man mano si va avanti nel tempo, man mano che si esce da quella che è un'emergenza perlomeno che noi sentiamo sulla nostra pelle, l'informazione diventa ancora più rarefatta perché è connotata, perché non ha quel sigillo di laica superiorità rispetto al condizionamento ideologico, e non ha la modestia di dire i dati sono questi, analizziamo quelle che sono fonti, quelli che sono i dati. Il giornale radio poco fa anticipato e trattato la ricerca Censis a suggestione, ma ci sono tante, c'è un'altra Romedia Research e Confartigianato pure ha fatto dei dati. Il termine comune è che gli italiani hanno paura. Bene, gli italiani hanno paura perché è anche comprensibile che di fronte a una così poca compattezza e serenità di analisi dei dati viene fuori la paura. La paura non sempre si traduce poi in comportamenti prudenti, la paura diventa un'irrazionale maniera poi di esprimere comunque una propria visione della vita plasmata su quella che è un'emergenza. Oggi cosa vogliamo fare questa mattina? Questa mattina abbiamo preso due persone, due osservatori, due ospiti ricorrenti nelle nostre trasmissioni, e da ognuno di loro ci facciamo fare un punto rispetto a quello che razionalmente possiamo dire, analizzando le fonti che lucidamente abbiamo a nostra disposizione. Sul resto non è possibile che fare congetture. Allora, 800240024, intanto chiedo al pubblico di esprimerci quali sono, se possibile, i confini razionali della propria paura, ammesso che abbiano paura, se fanno parte di quell'umanità fortunata, devo dire, perché probabilmente vive con meno ansia, che pensa che in fondo è tutta una grande costruzione mediatica, c'è dietro un grande disegno, è, come dice Bolsonaro, molto più spaventosa la paura del virus che il virus stesso, che si evaporerà come appunto la pioggerella evapora con il primo sole. Beh, faccelo sapere, ci interessa anche analizzare questa posizione. Nino Cartabellotta, buongiorno. Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, Nino Cartabellotta lo chiamo perché è una delle persone che lucidamente, senza fare interpretazioni basate sul pregiudizio, analizza ogni giorno quelle che sono le fonti, poche o tante che sia, che si traducono in un rapporto che la Fondazione Gimbe, che quella che lui presiede, è presidente, è un medico, che è il gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze, fa puntualmente. Il rapporto di oggi della Fondazione Gimbe è fresco fresco di giornata, abbiamo la fortuna di essere i primi a parlarne. Allora Nino, cerchiamo di capire quali sono le fonti che è possibile analizzare, che danno comunque una certa dimensione del problema e della situazione in Italia, al di là delle interpretazioni, al di là delle emotività. Le fonti di fatto sono sempre le stesse, sono rappresentate dai dati che le regioni trasmettono ogni giorno all'Istituto Superiore di Sanità, al Ministero della Salute, attraverso quelli che sono i flussi nazionali, e analizzando i dati dell'ultima settimana, come i radioascoltatori sanno bene, noi facciamo da tempo delle analisi settimanali e adesso stiamo cominciando a vedere che, siccome i numeri sono in riduzione, probabilmente la cadenza opportuna è quella di farle ogni due settimane. Nell'ultima settimana si conferma ancora una volta quel trend in discesa dei posti letto occupati in terapia intensiva e negli ospedali, ma si mantiene di fatto una stabilità in quella che è la crescita dei nuovi casi. Siamo intorno a uno 0,7% settimanale, più 0,7% settimanale, che significa più 0,1% al giorno. Quindi questo significa che il virus non è scomparso, che continua a circolare e, senza, voglio dire, destare particolari preoccupazioni, ogni qualvolta si presenta l'opportunità di condizioni socio-economiche disagiate piuttosto che di condizioni che favoriscono l'emergenza dei focolai, riaffaccia la testa e ovviamente questo fa incrementare il numero dei casi. Noi abbiamo espanso ovviamente il periodo di osservazione adesso alle ultime due settimane, dove si vede che nelle ultime due settimane abbiamo praticamente oltre 2500 casi, di cui la metà stanno in Lombardia, poi seguite da Emilia Romagna 402, Lazio 171, Piemonte 158, ma di fatto che nelle ultime due settimane non esiste ancora una regione a contagio zero. Ecco, volevo anche precisare questo aspetto oggettivo, che per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, all'interno di un paese, noi potremmo dire anche in una regione, la pandemia si considera tra virgolette conclusa nel momento in cui per quattro settimane consecutive non ci sono nuovi casi, nuovi contagi. Quindi, ti faccio una domanda, Nino, che è importante, sì, secondo me. Questi dati sono corroborati da un attento screening della popolazione? Cioè, noi ci siamo già più volte parlati, abbiamo fatto questa analisi, e c'è un punto che non è mai abbastanza chiaro. Ci sono meno dati, meno contagi, perché si fanno meno tamponi, meno controlli, meno analisi, o comunque c'è anche un osservatorio costante, coerente, trasparente su quello che le regioni fanno per poi emettere questo dato di contagi limitati, anche se non del tutto scomparsi? Ma guarda, questo aspetto era un'attitudine particolarmente diffusa, ecco, in quello che era il periodo delle cosiddette riaperture, dove c'era una sorta, diciamo, di interesse nascosto a non fare vedere troppi casi. Oggi, anche nel comunicato di oggi, noi abbiamo messo in correlazione nelle ultime due settimane il numero dei nuovi casi, il numero dei nuovi tamponi diagnostici, cioè quelli fatti per andare a scovare nuovi casi, quindi non per controllo. E tutto sommato c'è una linearità abbastanza coerente tra quella che è l'epidemiologia della crescita dei casi e i tamponi effettuati, quindi non possiamo dire che oggi ci sono regioni in cui ci sono tanti casi dove si fanno pochissimi tamponi, certo se ne potrebbero fare di più, però quello che è il dato mancante anche rispetto a quelli che sono gli indicatori richiesti al Ministero della Salute è capire nelle varie regioni quanto i nuovi casi siano frutto di focolai circoscritti e ben delimitati e quanto invece siano parte di un contagio diffuso, perché questo è un aspetto molto rilevante. Cartavellotti, io però leggo nel tuo rapporto di questa mattina l'interpretazione di questi dati risulta difficoltosa anche per la mancata disponibilità pubblica di tutti gli indicatori del decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020. Cosa manca per avere un quadro il più possibile rispondente a una realtà oggettiva? Ma il fatto generale, ecco, quando si fanno delle valutazioni sui numeri, che al diminuire dei numeri assoluti è ovvio che servono molte più informazioni per poter interpretare i numeri stessi. E se il decreto del 30 aprile del Ministero della Salute imponeva alle regioni la trasmissione sistematica di 21 indicatori, di questi 21 ne conosciamo a malapena 4. Quindi è evidente che molte informazioni che riguardano anche le modalità con le quali le regioni tracciano, o quindi i servizi epidemiologici di sorveglianza, non sono trasmesse in maniera sistematica. E quindi verosimilmente il Ministero e l'Istituto Superiore di Sanità non riescono a riassumerli. Credo che uno di quelli più importanti è quello appena citato, cioè a fronte di questi casi che per esempio sono presenti in Lombardia, che ne raccoglie circa la metà di tutta Italia, quanti sono dovuti a focolai ben circoscritti e localizzati, quanti invece sono dovuti a contagio diffuso, perché si tratta di due situazioni completamente differenti, la prima molto più facilmente circoscrivibile, la seconda invece che fa parte di una diffusione più meno identificabile all'interno della popolazione. E poi servono tutta una serie di informazioni su quelli che sono i processi con cui i servizi epidemiologici tracciano i casi. Purtroppo questo è un dato che noi rileviamo continuamente, che sono informazioni che servirebbero e sarebbero utili per capire meglio l'evoluzione del fenomeno stesso. In generale, un tuo parere personale che esula dai contenuti di questo ultimo vostro rapporto, come viene giustificata però questa paura che mi sembra in controtendenza rispetto ai comportamenti, che mi sembrano sempre meno attenti a quelle che sono le regole? C'è sempre un senso generale di messa in discussione le regole, come se fossero delle precauzioni esagerate, basate comunque su un presupposto ideologico di voler controllare. Ormai è chiaro e diffuso il dibattito, basta prendere 5 giornali con un orientamento e 5 giornali con l'altro orientamento, la notizia è andata in maniera diversa. Stanno esagerando, è una stupidaggine, che esagerazione, pensiamo ad altre cose, oppure la gente non osserva le regole, foto di persone assembrate, le spiagge con le persone una sopra l'altra e via dicendo. Ecco, da cosa è data questa paura, se alla fine i dati tutto sommato non danno altra indicazione che continuate a mantenere le norme di sicurezza e comportatevi bene perché lo stiamo tenendo sotto controllo? Io credo che in questo momento, anzi diciamo più o meno da un mese, si sia in qualche maniera confuso il concetto di terrorismo mediatico, o che come noi cerchiamo di mantenere alta l'attenzione per far capire che tutto non è finito, ma che possiamo riprenderci serenamente le nostre vite senza esagerare, da quello che è un po' il liberismo del liberi tutti, cioè siamo tutti liberi, anche complice l'estate, la voglia di riprendere tutte le attività sociali, di riprendere i nostri comportamenti. I dati dicono una cosa, tutto la parte grave dell'impatto del virus è ormai praticamente quasi scomparsa, ma il virus è ancora presente, quindi qualunque sia la probabilità di quella famosa seconda ondata di cui tutti parlano ma nessuno può prevederla, una cosa è ragionevolmente certa, che quanto più noi siamo capaci di fare i bravi, cioè di mantenere il distanziamento sociale, di usare le mascherine quando questo non è possibile mantenerlo, di evitare gli assembramenti, ovviamente quanto più le regioni seguiranno tutti quelli che sono gli elementi per la tracciatura epidemiologica dei focolai e il testing dei nuovi casi, quanto più noi abbatteremo e ridurremo questa probabilità. Noi non sappiamo se la probabilità della seconda ondata sia bassa, medio o elevata, ma comunque se ci comportiamo bene, se la parte sanitaria fa il suo dovere, questa probabilità si riduce. Questo credo che sia un messaggio di sano realismo basato sui numeri, basato sulle evidenze, e per quelle evidenze che non ci sono, basato su quel principio di precauzione che impone l'incertezza quando ovviamente noi non abbiamo evidenze scientifiche e dati sufficientemente disponibili. Quindi sentiamo velocemente, scusa se ti interrompo Nino, perché tra un po' devo dare la linea. Luciano da Palermo, se riesce una battuta a esprimere il suo punto di vista, poi diamo la linea. Luciano. Sì, salve, buongiorno. Senta, io penso che bisogna convivere con questa paura. Noi a Palermo ci siamo abituati con coraggio, che non è l'assenza della paura, c'è sempre la paura di convivere con la mafia, e per certi versi il convivere con la mafia l'abbiamo abbattuta, l'abbiamo diminuita, l'abbiamo ridicolizzata e l'abbiamo fatto diventare quasi impercettibile. La stessa cosa sarà e deve essere col Covid, se no noi non moriamo per il virus, ma moriremo per la strage economica che però avverrà. Luciano, se mi permetto, vivendo in un'altra latitudine, non avendo il problema sotto casa così evidente come probabilmente ce l'ha avuto lei, convivere con la mafia significa mettere in atto delle forme di solidarietà sociale, di attenzione e anche di coraggio civico che permette di mettere in crisi la mafia, non convivere e dire c'è, tanto c'è, facciamo finta che fa parte del nostro costume locale. L'ha detto una cosa molto giusta, e convivere con la mafia crea danni alla mafia se la coscienza generale mette in atto alcune misure che danneggiano la mafia, che limitano la mafia, che mettono in crisi la mafia. Convivere dicendo fa parte comunque delle cose con cui dobbiamo convivere fa sì che il fenomeno rimanga e cresca. Ci fermiamo un istante. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Melog. Caro Gianluca, ho scaricato l'app Immuni perché un mio cliente l'aveva installata e ha insistito. Ogni tanto la controllavo ma non vedevo niente di strano. Fino a due giorni fa, quando ho visto un messaggio con la scritta evidenziata in fucsia che diceva che ero stato a contatto il 4 luglio con una persona Covid positiva. Ho ripensato alle cose fatte quel giorno e non ho fatto nulla di particolare. Sono andato in un centro commerciale a fare la spesa, sempre con mascherina e disinfettando le mani. Come indicato sull'app, ho telefonato al mio medico e alla domanda su cosa dovessi fare mi è sembrato impreparato e alla fine mi ha detto in sostanza di non fare niente. Poi, dopo una lunga riflessione, ho disinstallato l'app, perché se mi avvicino a persone contagiate, lo so solo dopo che è successo e non me lo dice in quel momento. Cioè, io non voglio vivere con l'ansia, vorrei essere solo prudente e responsabile. Non lo so, ho molti dubbi. Certo è che ora mi devo fare 14 giorni di isolamento volontario. 800240024, ringrazio da Milano Valeria Bernardi, regia, Lorenzo Nespoli all'assistenza, da Roma Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti. Questa è la lettura che abbiamo fatto di un messaggio che ci ha mandato questa mattina un ascoltatore. Sì, lo siete dimenticato, fa parte comunque dei sistemi molto annunciati, di cui molto si è parlato, anche molto si è discusso nella nostra trasmissione, di controllo della diffusione del virus che è l'app Immuni. Vogliamo fare un punto anche su quest'app, perché da un po' di tempo non se ne parla più, se ne parla poco, se ne parla anche con un certo imbarazzo, perché forse l'impressione generale è che sia uscita un po' fuori tempo, un po' troppo tardi, con una campagna di informazione che non ha fatto capire bene nemmeno agli italiani come si usi, a cosa serva, quale sia il suo vantaggio. L'ascoltatore che ci ha chiamato l'aveva diligentemente scaricata e usata, però gli ha segnalato che è stato in contatto con una persona quando era uscito a fare la spesa. Cosa fa? Chiama il medico di base e dice cosa devo fare. Il medico si è accorto che non è che aveva molte risposte da dargli, ha detto basta a casa, e se ne sta a casa 15 giorni. Basta, non basta, questo è sufficiente a valutare quali sono i vantaggi dell'app? Andrea Rossetti, buongiorno. Buongiorno, ciao Gianluca. Allora, Andrea Rossetti è professore, docente di informatica giuridica alla Bicocca di Milano. Con lui, dai primi giorni in cui si è parlato di Immuni, abbiamo fatto un punto e un'analisi. Vediamo se riesce a darci un aggiornamento su cosa sta accadendo attorno all'app Immuni. Ma purtroppo c'è veramente poco da raccontare, nel senso che l'unico dato ufficiale che abbiamo è che sono avvenuti 4,1 milioni di download, di scaricamenti, tra app su Android e su iOS, su iPhone. Oltre a questo non sappiamo nulla. È un dato peraltro anche questo davvero poco significativo, perché ad esempio io l'ho scaricata ma sul mio telefono, ma non è attiva ormai da giorni. Oltre a questo non sappiamo niente, quindi non sappiamo assolutamente valutare l'effettività impatto che quest'app sta avendo sulla situazione in cui ci troviamo. Non abbiamo avuto neppure i dati della sperimentazione. Se ricordate, l'unico dato della sperimentazione che emerse fu la segnalazione di alcuni contagiati in Liguria, 3 se non ricordo male, dopodiché non si sa più nulla. Ogni tanto appunto ci sono alcuni che raccontano, come il tuo ascoltatore Gianluca, la loro vicenda e si trovano in situazioni a volte imbarazzanti, appunto, perché come si è più volte detto, ma questo l'ho detto anche coloro che sostengono l'adozione di quest'app, quello che è importante è ciò che accade una volta che uno riceve la segnalazione, e E anche su questo c'è molta confusione, nel senso che le persone non sanno cosa fare. Questo signore ha chiamato il suo medico, il medico doveva dirgli, dice, boh, sta a casa 15 giorni. Esatto, è l'unica cosa, il medico avrà sicuramente segnalato all'ASL, no? Sicuramente. E come conseguenza di questa segnalazione, effettivamente io l'obbligo, in questo caso l'obbligo giuridico, nel senso che sono obbligato dalla legge a stare a casa in quarantena. Sì, perché era una giorni. Persona onesta, il nostro ascoltatore, un altro ha detto, beh, sono stato in contatto, certo, che devo certo. fare? Non lo segnala facciamo al medico di base o al numero unico, no, per segnalare queste cose e non succede nulla, voglio dire. È davvero complicato, peraltro nella descrizione del tuo ascoltatore c'è anche un errore, no? Nel senso che l'app non è mai stata progettata per avvertirti in tempo reale se incontri qualcuno, ovviamente direi anche, certo. No? Perché qui si sarebbe potuto anche scatenare una sorta di caccia all'untore. L'altra grande informazione che ci manca è quella dei falsi positivi, cioè non abbiamo idea effettivamente di quanto sia in grado di valutare in maniera corretta il mio contatto con una persona potenzialmente infetta. Peraltro c'è anche una discussione un po' confusa su GitHub, pare che i parametri iniziali, cioè 2 metri di distanza e 15 minuti, siano modificati. GitHub è questo posto dove si trova il codice sorgente e un po' di commenti sul codice sorgente, no? Mi pare che questa cosa sia stata modificata nella seconda versione dell'app che è stata diffusa, però non si capisce neanche bene come sia stata modificata. No, quindi io non so più neanche bene quale sia la distanza che io devo effettivamente mantenere da qualcuno per non essere considerato Però vedi che il vero problema è questo terreno che mi trova molto sensibile, proprio sulla comunicazione. Ma è uscito un sondaggio certo. proprio 3 ore fa, certo. Tu me l'hai mandato via WhatsApp, sì, lo vedo uscito, adesso, cosa dicono? Ho uscito poche ore fa di SVC, che è una società che fa questi sondaggi ormai dall'inizio degli anni 80, se non ricordo male, e fondamentalmente la maggior parte di coloro che non l'hanno scaricata perché non la reputano efficace, quasi il 44%, il 44% di coloro che l'hanno scaricata. La privacy, i timori per la privacy sono solo al secondo posto e poi un po' tutti gli altri, insomma. Il 20% di coloro che non l'hanno scaricata temo ad esempio di finire in quarantina per sbaglio. Cosa che è effettivamente è possibile. No? Che può proprio accadere, perché... mettiamoci in caso che può accadere. Ma certo, come allora... ho detto forse... Scusa. Sì, no, lo sapete, Nino Cattabellotta che ci sta continuando ad ascoltare, ricordo che è il presidente della Fondazione GIMBE. Hai un tuo parere personale su quello che sta accadendo attorno all'app Immuni? Su questo sarà oggetto comunque di un vostro successivo report? Ci state riflettendo, pensando? Che idee ti sei fatto? L'idea è quella più volte ribadita, peraltro diciamo sostenuta anche dell'assenza dei dati disponibili. L'app ha, qualunque sia diciamo la tecnologia utilizzata, il software e quant'altro, al di là di tutte le discussioni che si sono fatte su tutela della privacy piuttosto che sicurezza dei dati, è uno strumento tecnologico inserito all'interno di un sistema di sorveglianza, fatto di strumenti sanitari, quindi un'intensa attività di testing da parte delle regioni, fatto di persone che poi devono ovviamente dare delle risposte ai soggetti che risultano positivi, quindi non è una scatola come quella che si sta presentando in questo momento, una sorta di scatola vuota che ovviamente, tenendo conto anche di una serie diciamo di ostruzionismi fatti da alcune regioni, l'esito a oggi è che, come si diceva poco fa, poco più di 4 milioni di persone l'hanno scaricata e di fatto non sanno nemmeno come utilizzarla e restano anche ostaggio di quelle che sono delle non sappiamo nemmeno se la stanno usando, perché scaricarla non significa usarla. Assolutamente sì, però ribadisco, quello che è mancato dal punto di vista della comunicazione e anche della strategia complessiva, che l'app non è uno strumento che funziona da solo, ma che fa parte di un insieme diciamo di strategie e di strumenti e di persone che devono lavorare nel sistema di tracciatura. Sentiamo Manlio da Torino, buongiorno. Pronto, buongiorno. Io sono un medico e faccio il direttore sanitario in una casa di cura di riabilitazione. Ora io non voglio sottovalutare il virus, che in effetti in Lombardia ha avuto veramente c'è stata una concentrazione temporale, locale della pandemia veramente devastante. Però trovo che per certi aspetti si è poi anche un po' esagerato. Per esempio questa chiusura totale delle scuole, quando si sa che i bambini e i soggetti giovani sono poco suscettibili al virus, e tutta questa preoccupazione per riaprirne. Però dottore, mi consenta, lo trasmettono, loro magari non ne hanno danni, però lo trasmettono. Roma c'è stato un esplodere di tamponi fatti attorno a un bambino che ha avuto, improvvisamente l'hanno trovato positivo, e quindi hanno tamponato un migliaio di persone, mi pare. Sì, però abbia pazienza, intanto non è ben chiaro quanto le persone che non hanno sintomi possano poi avere una trasmissione veramente efficace del virus nei confronti delle persone circostanti. Questa è ancora una cosa molto in discussione. E poi, viva Dio, insomma, abbiamo convissuto nel corso dei secoli con tante malattie. Anche con questa prima dobbiamo rassegnarci a convivere. E qualche mese fa è stato giusto scusi, dottore, le faccio una domanda molto secca. Fosse lei responsabile assoluto, plenipotenziario, per dettare le linee di comportamento per il Covid, cosa farebbe? Così almeno si prenda la responsabilità. Cosa farebbe lei in questo momento? Certo non direi libertà totale, però direi però sarei un pochino, diciamo, più lasco. Io faccio anche quest'altra considerazione. L'anno scorso in Italia sono morte 650.000 persone. Quest'anno per il virus ne sono morte 30.000. E molte di queste 30.000 probabilmente sarebbero morte comunque. E poi Scusi, dottore, si sta schierando molto chiaramente. In quelli che dicono, in fondo, non è una cosa così grave come ci vogliono far credere. Ma cosa pensa? Che ci sia dietro un disegno che vuole dare allarmismo non giustificato attorno al virus? Perché essere più lasco cosa significa? Poi si prenderebbe, se lei fosse responsabile, anche le conseguenze dell'essere più lasco, evidentemente. Perché i dati della Fondazione Cimbe sono molto chiari. Il virus ancora c'è. Laddove cadono le linee di attenzione e sicurezza, si possono riverificare dei casi. Poi se questo sfocia in una seconda ondata non vogliamo dirlo, perché non vogliamo essere tacciati di menagrami, come accade tutte le volte si pone prudenza. Ma in un caso in cui non si sa, la linea prevalente deve essere quella della maggior prudenza piuttosto quella della maggiore lassezza? No, ma io adesso non esageriamo dall'altra parte. Io non ho detto che bisogna essere che bisogna liberalizzare completamente tutto all'improvviso, eccetera. Io dico che bisogna essere prudenti, ma forse con la prudenza per certe situazioni si sta un po' esagerando, ma no, non è che voglia dire come per tutte le altre malattie dobbiamo essere prudenti nell'affrontarle. In fondo ci fosse anche una terribile epidemia di influenza, come tra l'altro in passato ci sono state, dovremmo essere prudenti anche con influenza. Sì, chiaro, questo d'accordo, però abbiamo visto, ritorniamo a un discorso che è stato fatto da mesi. La singolarità di questa pandemia è che abbiamo a che fare con un virus che non si conosceva, i cui comportamenti ancora non sono ben chiari, nemmeno nel suo sviluppo, nelle persone che lo hanno avuto e ne sono uscite. Ci fermiamo ancora un istante. Vitae online e ci guadagni online. Sfatiamo questo mito, si guadagna con il sito. Aziende o negozianti, gli affari sono tanti. Italia online e ci guadagni online. Il tuo sito non era online, adesso hai Italia online. L'e-commerce era un tabù, ma se lo fai vendi di più. Creiamo il tuo e-commerce, guadagni subito e paghi tra 3 mesi. Vai su italiaonline.it. Melog 800240024, abbiamo 5 minuti alla chiusura, quindi cerchiamo di tirare qualche conclusione. Volevo intanto sentire Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Cimbe, che oggi presenta il suo report settimanale, su un commento sulla lettura di questo direttore sanitario. Forse sono io che ho un pregiudizio nei confronti di chi dice che bisogna allentare, ma era fondata su dati condivisibili? Ma io credo che lui si sia, diciamo, espresso forse in maniera non felice rispetto ad alcune sue intese. Io ho capito perfettamente cosa intendeva il collega. Cioè, lui non si riferiva a quelle che sono le precauzioni da prendere per il virus in generale, ma sul fatto che rispetto a tutta una serie di iniziative di aperture, di riaperture o di cose che sono rimaste chiuse come le scuole, non c'è stata proporzionalità nella valutazione del rischio. Cosa intendo con questo? Intendo che a parità di rischio, voglio dire, è stata privilegiata la riapertura di un'attività che ovviamente aveva un impatto economico importante e magari non sono state riaperte le scuole. Ma in questo momento la pressione era molto chiara, anche la pressione sociale. Quindi riapriamo le attività le scuole possono stare a casa ancora qualche settimana e poi si vedrà. Assolutamente, quindi è stato, diciamo, frutto di una decisione politica, frutto di quelle che sono irragionevoli compromesse tra sviluppo dell'economia e tutela della salute. È evidente che in questo è possibile che ci siano state anche delle sbavature, perché alcune attività che hanno prodotto anche dei grandi assembramenti forse potevano rimanere chiuse per un altro po' di tempo, tenendo conto che abbiamo deciso di lasciare le scuole chiuse fino a settembre prossimo. Quindi, ma queste poi sono decisioni che spettano alla politica e devono ovviamente tenere conto di quelli che sono i vari. Però vedi, fa parte del bagaglio di responsabilità che si prende, che deve prendere decisioni. È un po' facile dire secondo me avrei fatto questo, però devi considerare tutte le fattispecie. Quando si gestisce devi sentire gli imprenditori, devi sentire gli esercenti, devi sentire le persone, e se qualcosa rimane fuori decidi. Non voglio adesso giustificare o farmi paladino delle scelte istituzionali, ma su qualcosa bisognerà ogni tanto avere un atteggiamento estremamente prudenziale. Si può avere un risultato spalmato su tutte le possibili attività. È vero, vediamo le spiagge con la gente uno sopra l'altro. È stato detto, dovete starci attenti, abbiamo sentito i bagnini, gli imprenditori, le persone che tengono le sdraio separate, sarà parlato di visioni di plexiglass. Se poi la gente va in frotte e dice non è niente, non ce ne sta di Covid, come dice ormai la signora che è diventato un meme, e cosa bisogna fare? Andrea Rossetti, dal tuo punto di vista invece, cosa ti aspetti che accada al momento che l'App Immuni c'è, è stato un investimento pubblico, se ne è parlato, qual è il pezzetto? Anche tu, faccio la domanda che ho fatto al dottore, se tu fossi responsabile in questo momento per la massima trasparenza e la comunicazione più efficace perché questa app abbia una sua giustificazione d'essere, cosa bisognerebbe fare? In questo momento renderei disponibili tutti i dati che l'app raccoglie inevitabilmente, a partire dal numero delle persone contagiate che sono segnalate attraverso l'app Immuni, ovviamente in maniera anonima, in maniera che se ne possano fare degli studi per cercare di valutare l'effettiva efficacia di questi strumenti, perché non dimentichiamolo, non c'è nessuna prova scientifica che questi strumenti servono effettivamente meglio del tracciamento manuale che viene fatto abitualmente quando una persona viene individuata come contagiosa, insomma come malata. Quindi l'apertura dei dati è una cosa fondamentale in questo momento per acquistare proprio credibilità, perché così non è possibile alla comunità scientifica valutare effettivamente il funzionamento di quest'app, e speriamo che il ministro presto ce la riveda. Questo in termini concreti come potrebbe avvenire? Dovrebbero fare una comunicazione ufficiale, dire finora l'app Immuni è stata usata in questo, non dire quanti l'hanno scaricata, che non cambia nulla, perché uno non può scaricarla anche tre volte. Certo, loro avranno dei dati sicuramente, io ripeto, a partire dal numero di, allora se ci sono stati 100 contagiati in Italia oggi, di questi 100 contagiati quanti avevano l'app Immuni ad esempio, e quindi quante segnalazioni sono partite attraverso l'app Immuni, dati di questo genere, quindi file che contengano dati di questo genere, magari divisi addirittura per regione, non sarebbe male sapere i dati per regione, insomma bisogna sempre stare attenti appunto a fare in modo che poi i dati non portino a identificare un soggetto specifico, ovviamente, però dati aggrumati a livello nazionale, regionale o addirittura provinciale sarebbero davvero utili per cercare di capire, cioè ad esempio un'applicazione, se l'applicazione è stata adottata dalla maggior parte delle persone della provincia di Pavia, faccio un caso perché abito qui, ma in provincia di Pavia negli ultimi due settimane non si è registrato neanche nessun caso, è chiaro che qui l'adozione non ha nessun senso in qualche modo, no? Perché in questo momento non mi dà nessun dato che mi permetta di valutare l'effettiva portata del suo utilizzo. Ah, perfetto. Nino Catabellotti, una battuta, sei d'accordo con quanto dice il professor Rossetti? È un tema che vale la pena di approfondire secondo te? Assolutamente sì, noi siamo sempre per gli open data, tutte le informazioni che riguardano l'epidemia dovrebbero essere rese disponibili in formato aperto a tutti i ricercatori che vogliono utilizzarle per attività di ricerca indipendente. Purtroppo non mancano solo quelli delle app, ma tante altre informazioni che sono utili in questo momento dove i casi sono pochi per effettuare studi analitici in maniera indipendente e poter dare una mano anche con i risultati alla ricerca a quella che è ovviamente la gestione dell'epidemia nei mesi futuri. Arriviamo alla conclusione che abbiamo più volte fatto, in realtà nella comunicazione che è l'elemento fondamentale di sicurezza in questo momento particolare, molte volte la necessità di una gestione politica di questa comunicazione va sopra la necessità di usare la comunicazione come strumento stesso di prevenzione e di sussidio a superare il problema della crisi Covid. Grazie a Nino Cartabellotta, grazie a Andrea Rossetti, alla prossima.